l'invidia quasi tutto il vicinato, perché ho trovato un bel garzone. Ho preso già gli accordi con mamma e con papà, mi sposa non appena tornerò. Il mio amore bersagliere, guarda audace, occhioni neri, sul cappello porta piume in quantità. Se mi stringe forte al cuore in un bacio tentator, con le piume che solletico mi fa. Innamorato, me l'ha giurato, ed al curato mi porterà. Il mio amore bersagliere, guarda audace, occhioni neri, sul cappello porta piume in quantità.